Una luparo. Voi altri non sapete cosa sia il luparo. A che mi fa pensare il luparo? Non alla lupara. Alla lupara. Sì, vabbè, sì, forse. Anche alla lupara. La lupara è che caccia. Che sarà il luparo? Qualcuno che caccia i lupi. Esatto. È un signore che per mestiere uccide i lupi. Per mestiere. No? Non perché è un bracconiere. Lo fa di lavoro. E il nonno di Wilson come lavoro faceva il luparo. Era un mestiere totalmente legale, vabbè, per quanto volevano essere legali i mestieri una volta, vabbè, non c'erano tanti problemi, insomma, non ci facevano tanti problemi. E, ma come faceva questo signore a guadagnare uccidendo i lupi? I contadini veniva pagato. Non tanto i contadini, cioè, quanto i pastori, esatto. Allora, tanto tempo fa qui si viveva appunto di agricoltura e di pastorizia. Dico qui per dire tutto l'Appennino centrale, non soltanto quello. Si viveva tantissimo di pastorizia, no? L'Abruzzo, la Puglia, la Campania sono famose per la transumanza, era questa abitudine di portare le greggi di pecore, no? In ambienti più caldi dove non c'era niente. E il nemico numero uno dei pastori era ovviamente Lupo, no? Non immaginatevi delle persone cattive, immaginatevi delle persone che semplicemente vivono con le pecore e con il metto. Quindi qualsiasi cosa potesse ammazzare pecore e metto, ovviamente per loro era qualcosa che gli toglieva del cibo, quindi toglieva da mangiare alla famiglia. No? Quindi il lupo per secoli è stato il nemico numero uno dei pastori, e siccome la nostra è una cultura che deriva da una cultura pastorale, il lupo è anche per noi un animale cattivo, no? Nelle favole il lupo è buono o cattivo? Non c'è una favola con il lupo buono, no? Sono tutti cattivi i lupi. Ma i lupi in Italia non mangiano le persone, giusto? Non rapiscono i bambini. Eppure tutti sono convinti di questa cosa, perché abbiamo questo tipo di storia. Il lupo era un nemico per eccellenza. Non si dà, quindi posso aspettare una lancia a favore di Lupo Alberto? Lupo Alberto però è italiano? Sì. Bravo Lupo Alberto. La lupa capitolina è buona. Lattata. Allora, il signor Luparo, quindi il nonno di Wilson, lui andava in montagna, usava ovviamente usava il fucile, usava il veleno, usava le tagliole, usava qualsiasi cosa avesse a disposizione per uccidere i lupi. Ogni volta che lui riportava in paese un lupo morto, lo pagavano ovviamente soprattutto in natura, no? Quindi non quello che pensate voi. No, ho detto in natura, poi detto, che però, appunto gli agricoltori davano i legumi, le uova, che ne era una specie di baratto. E quindi i lupari campavano così. I lupari ovviamente sapevano fare benissimo l'ululato dei lupi, perché dovevano tirarli, soprattutto durante la notte. Sapete che i lupi, i branchi, anche all'interno del branco, comunicano tra di loro tramite gli ululati. E quindi erano persone che si chiamavano benissimo. E Wilson, da suo nome, che è il nostro amico, ha imparato benissimo a fare il nemico. Tanto che se voi sentite la registrazione di un nemico, e la registrazione di Wilson è uguale. È difficile, eh? Perché lui vuol dire che si inizia a fare au, no? E ti viene ululato. Ha una modulazione particolare, ha una frequenza di soffio, ma e lui se ne dice tanti anni, diciamo che era un po' un punto di riferimento, dico era perché adesso lo dico perché era un punto di riferimento per il paese,